La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato al Partito Comunista Italiano. Il 21 gennaio del 1921, 90 anni fa a Livorno, nasceva quello che sarebbe diventato il più forte partito comunista d'Occidente. Ripercorriamo la storia del PCI insieme a Giuseppe Vacca, direttore e poi presidente della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. Novanta anni fa, il 21 gennaio del 1921, nasceva il Partito Comunista Italiano. La storia di quello che sarebbe diventato il più importante partito comunista d'Occidente, travolto poi anch'esso alla fine degli anni 90 dalla dissoluzione dell'ex impero sovietico, nasce con una scissione, una delle tante fratture che hanno contraddistinto la storia della sinistra italiana. Oggi a Livorno c'è una scuola materna al posto del vecchio Teatro San Marco, dove 90 anni fa Antonio Gramsci e Amedeo Bordiga, dopo aver lasciato il congresso del Partito Socialista che si svolgeva nel vicino Teatro Goldoni, fondarono il Partito Comunista d'Italia. L'occupazione delle fabbriche, che ebbe luogo in quello che è passato alla storia come il Biennio Rosso, è all'origine della scissione di Livorno non meno dei 21 punti dell'Internazionale Comunista, che accelerano e radicalizzano il processo già apertosi a Mosca sull'onda della rivoluzione bolscevica del 1917. Il processo di scissione, ha scritto Paolo Spriano, uno dei maggiori storici del Partito Comunista, scomparso nel settembre del 1988, è nazionale e internazionale. La sensazione che in molti hanno a Livorno, che i giochi siano fatti, domina l'assemblea, pur tumultuosa, esasperata, quasi attonita dinanzi alla ineluttabile rottura. La frazione comunista è già un partito, l'Internazionale di Mosca ha fatto la sua scelta. Serrati e i massimalisti anche. Ciascuno avrà poi occasione di riflettere sui propri errori e su quelli degli altri, ma un intero periodo storico si incaricherà di sottolineare la necessità di quella rottura che è generale per tutti i paesi, con un forte movimento operaio di ispirazione marxista. Allora, agli inizi del 1921, l'elemento forte di differenziazione che sconta un palese errore prospettico è che i comunisti siano rimasti soli a credere che la situazione permanga rivoluzionaria. E quanto afferma a Livorno il rappresentante dell'Internazionale quando sostiene che i cosiddetti opportunisti non riconoscono che siano mature le condizioni per una rivoluzione proletaria. La conclusione, come ricordava ancora Paolo Spriano nella sua monumentale storia del Partito Comunista Italiano, è che la frazione comunista si presenta a Livorno come l'unica che mostri di credere nella rivoluzione imminente. La scissione si consuma nella mattina del 21 gennaio 1921, quando Amedeo Bordiga rivolge questo appello ai propri delegati. Quanti hanno votato la mozione della frazione comunista, abbandonino la sala. Sono convocati alle 11 al Teatro San Marco per deliberare la costituzione del Partito Comunista, sezione italiana della Terza Internazionale. I comunisti escono dalla sala intonando l'Internazionale e si avviano verso la nuova assise di fondazione. Cosa avverrà domani? Si chiede da Torino Palmiro Togliatti. Non lo sappiamo, ma sappiamo che oggi per noi è giorno di propositi, di volontà, di azione. Ha inizio una lunga e tormentata storia che attraverserà buona parte del cosiddetto secolo breve, per concludersi il 12 novembre del 1989 con la svolta della Bolognina, tre giorni dopo il crollo del muro di Berlino. Era il 20° e ultimo congresso del Partito Comunista Italiano. Toccò all'ultimo segretario del PCI, Achille Occhetto, dichiarare chiusa una vicenda politica durata 68 anni. Oggi è un momento importante della nostra vicenda individuale, è un momento importante della nostra vicenda collettiva e sarà un momento memorabile della storia politica dell'Italia. E così sarà con l'aiuto e il concorso di tutti voi e di altri che verranno, e soprattutto dei giovani che accetteranno la sfida da noi lanciata per aprire nuove prospettive, per costruire, ecco il compito, ecco l'orgoglio che ci guida, il futuro dell'Italia. Abbiamo in linea Giuseppe Vacca, direttore e poi presidente della Fondazione Istituto Gramsci di Roma, autore di numerosi libri pubblicati da Einaudi, tra cui ricordo Gramsci e Togliatti, Riformismo Vecchio e Nuovo, e da ultimo pubblicato da Fazzi, Il riformismo italiano dalla fine della guerra fredda alle sfide future. Grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermelo inoltrato. Allora, la scissione di Livorno. La scissione di Livorno è la frattura della sinistra dalla cui costola nasce il Partito Comunista nel 1921. Una frattura, noi l'abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori poc'anzi, in qualche modo obbligata, visto appunto gli schieramenti e visto quello che accadeva nel mondo in quegli anni. È così? Beh, il Partito Comunista d'Italia, come alcuni altri partiti comunisti europei, anzi tutti, nascono per scissione dai vecchi partiti socialisti. L'unico caso in cui fu una scissione, per così dire, di maggioranza fu quella del Partito Comunista francese. Nel caso del Partito Comunista italiano fu una scissione di minoranza, esattamente quello che Lenin non voleva, che lo stesso Gramsci poi due anni dopo considerò piuttosto un contributo alla dissoluzione del sistema politico italiano che non un primo momento di ricostruzione di alternativa. Quindi dice, beh, fummo travolti, insomma, fu un elemento del caos in cui versava la situazione italiana e non fummo subito capaci di prospettare un'alternativa, perché già si preparava, diciamo, alla rifondazione del PC, cosa che fece il PCD, del Partito Comunista d'Italia, che poi avvenne sotto la sua guida tra il 1924 e il 1926. Paolo Spriano, nella sua monumentale Storia del Partito Comunista, osserva come la frazione comunista a Livorno si presentò come l'unica che mostrava di credere nella rivoluzione imminente. Ma fu proprio così, cioè i comunisti italiani scissionisti a Livorno erano convinti che la rivoluzione fosse dietro l'angolo? Non erano compatti, non erano fra loro perfettamente omogenee le componenti della sinistra comunista, la sinistra socialista, insomma, che poi diedero vita alla scissione di Livorno, però un minimo comune denominatore l'avevano all'atto di nascita ed era esattamente una veduta della situazione molto diversa da quella che aveva l'Internazionale Comunista, che proprio in quell'anno cominciava ad elaborare la sconfitta, ad ammettere la sconfitta e il mutamento di fase, tanto che varava una nuova tattica, si chiamava la tattica di fronte unico, e aveva come parola d'ordine per i partiti comunisti piuttosto quella di provare a radicarsi nelle situazioni nazionali e provare a diventare il partito di maggioranza della classe operaia, proprio perché il tempo non era più quello della rivoluzione immediata, ma semmai quello dell'accumulazione delle forze per quando l'ondata rivoluzionaria fosse tornata all'orizzonte. Insomma, si era all'indomani della sconfitta dell'Armata Rossa alle porte di Varsavia, che segnò l'arresto della espansività, diciamo proprio diretta, dell'espansione diretta dell'ondata rivoluzionaria in Europa per impulso della sua centrale, che era Mosca. Quella che nasce il 21 gennaio del 1921 a Livorno è una lunga storia, una storia che durerà 70 anni. Possiamo tentare, provare di sottolineare, a rimarcare alcuni dei tratti salienti che hanno caratterizzato la vicenda politica del Partito Comunista Italiano nella storia italiana in questo lungo periodo? Ma diciamo, nel periodo fra le due guerre, cioè durante il fascismo, ciò che caratterizza il Partito Comunista d'Italia è di essere l'unica forza politica fra le forze antifasciste che riesce a darsi una relativa continuità, pur nelle condizioni di clandestinità e di ferocissima persecuzione e repressione da parte del fascismo, continuità organizzativa. In qualche modo nuclei abbastanza limitati del Partito Comunista d'Italia riescono ad operare clandestinamente in maniera più o meno ininterrotta durante il ventennio fascista, naturalmente in una condizione di scarsissima rilevanza via via che il fascismo si consolidava. deve parlare di una storia completamente diversa quando interviene la Seconda Guerra Mondiale in un contesto internazionale completamente diverso, che è quello dell'alleanza fra Stati Uniti, Inghilterra e Unione Sovietica. C'è una parentesi che dura 4-5 anni nella storia mondiale, che potremmo considerare una parentesi proprio perché non è fatta di contrapposizioni fra l'Unione Sovietica e l'Occidente preso in blocco, l'Occidente capitalistico preso in blocco, ma è una coalizione antifascista che individua nel nazismo e nel fascismo il nemico principale, non lo identifica con l'intero Occidente capitalistico e quindi muta di paradigma. È un mutamento di paradigma a cui il Partito Comunista d'Italia si era già ispirato da tempo e che poi dopo la Seconda Guerra Mondiale non abbandonerà mai, essendo l'antifascismo l'alfa e l'omega del suo orizzonte strategico. Un'ultima domanda, professor Vacca. La svolta della Bolognina del 1989, svolta che segnò la fine della lunga storia del Partito Comunista, era obbligata secondo lei? Assolutamente sì, si può discutere sul modo come fu fatta e che ci vide differenziati, anzi in alcune parti spaccati, tanto che poi nel 91 nacque il PDS, ma nacque anche il partito che poi si chiamò della Rifondazione Comunista, ma era assolutamente obbligata perché nel lungo dopoguerra, nei 30 anni, 40 anni di successiva alla Seconda Guerra Mondiale, il Partito Comunista era diventato una grande forza nazionale, interdipendente con il campo comunista, ma fortemente nazionale e specifica. Si può anche dire che era un partito comunista per modo di dire, ma era pur sempre, dal punto di vista dei suoi legami internazionali, un partito comunista che quindi non poteva che subire la fine che subiva il comunismo sovietico in tutta Europa. Molte grazie, professor Vacca. A